Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che parla di lavoro, di come conciliare il lavoro e la vita privata, e parla di lavoro soprattutto da un'angolazione femminile, sempre avendo come stella polare diciamo lo smantellamento di un luogo comune che ci ha rovinato la vita negli ultimi 20 anni, e cioè quello che le donne debbano essere multitasking, perché questo le aiuta a vivere meglio, ci aiuta a vivere peggio invece. E quindi, essendo la nostra battaglia contro il multitasking quella che è il filo conduttore, il fil rouge delle nostre puntate, da lì cominciamo sempre, ricordando a tutti noi e a me per prima che il multitasking è una fregatura. E a proposito di battaglie e di sfide, ricorderete forse alcune puntate che Nessuna è perfetta ha dedicato a quello che era la grande, stata e rimarrà la grande svolta internazionale del 2016, vale a dire il referendum in Gran Bretagna. Noi ne abbiamo parlato pensando che il gran bla bla che si è fatto sulla possibilità che altre capitali europee traessero vantaggio dal fatto che Londra aveva scelto di di andare fuori dall'Europa, ecco, che tra le capitali che potevano trarre vantaggio ci fosse anche Milano, capitale morale d'Italia, e ce ne siamo occupati perché sappiamo che secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro il lavoratore milanese è per quasi la metà una donna, e che quasi la metà delle lavoratrici che lavorano appunto a Milano esercitano professioni altamente qualificate. E allora, adesso che Theresa May deve un po' decidere quali sono le priorità, cioè qualcuno dice che ci vorranno 10 anni per i negoziati che porteranno la Gran Bretagna fuori dall'Unione, qualcuno dice che invece sarà più rapido, però intanto molte capitali europee si stanno dando da fare, Madrid, Francoforte, e noi abbiamo deciso di capire, sempre pensando ai vantaggi che sotto il profilo del lavoro porterebbe un'eventuale allocazione di risorse e aziende su Milano spostate da Londra, ecco, abbiamo cercato di capire, vorremmo cercare di capire a che punto siamo. Milano, chissà se Milano può strappare qualcosina nella nostra immaginaria competizione, per ora è solo immaginaria competizione con Londra. Voglio proprio sapere cosa ne pensa l'agente provocatore di oggi. Dunque, benvenuto e buona domenica al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che ha fondato il quotidiano che sta avendo uno straordinario successo, l'ha fondato soltanto il 20 settembre del 2016. Buona domenica Belpietro, ma Milano ce l'ha questa chance di strappare qualcosina a Londra? Buona domenica innanzitutto, ma io credo di sì, Milano ce l'ha perché è una città moderna, è una città che grazie alle scelte di amministrazioni del passato ha fatto delle cose e sta cambiando, è una città che deve andare avanti, una città che deve guardare al futuro, che deve attirare investimenti, che deve far rientrare tanti giovani che se ne sono andati, insomma serve una politica ovviamente di grande flessibilità, ma anche di grande fantasia, apertura. Ci sono tante aree che attendono di essere ristrutturate, riviste, rimesse insomma a disposizione non soltanto della produzione, ma anche di essere trasformate in aree verdi. Cioè, Milano può diventare una città ancora più moderna e ancora più interessante per chi viene da fuori. È una città ancora molto costosa. Lei che ha questo giornale appunto appena nato, riceverà tantissime richieste da giovani cronisti che vorrebbero fare giornalisti. È un limite il fatto che trovare casa a Milano, per esempio, è ancora molto più costoso che trovarla a Berlino? Sì, è una città costosa sicuramente, ma non lo è così come ci immaginiamo. Cioè, la crisi ha abbassato i prezzi per chi deve affittare casa, anche per chi la deve comprare. Quindi ci sono delle opportunità, ma soprattutto ci sono dei quartieri che una volta erano considerati quartieri un po' meno interessanti, che invece stanno diventando dei quartieri moderni, collegati con le linee della metropolitana. Cioè, bisogna anche guardare al futuro. Qui hanno fatto nel corso degli anni nuove linee della metropolitana, una la stanno completando, stanno lavorandoci proprio ora, quindi anche questo renderà i quartieri più facilmente raggiungibili, i servizi miglioreranno, ci sono delle vie che una volta erano considerate degradate, che improvvisamente si sono trasformate, sono migliorate, sono diventate appetibili, e non soltanto per mettersi uffici o così, ma anche per viverci. Senta Belpietro, ma perché se Milano va bene tutta l'Italia dovrebbe fare il tifo per lei? Perché ovviamente noi qui a Radio 24 stiamo parlando non soltanto ai milanesi che ci ascoltano, ma a tutta Italia. Dunque, in quale modo potrebbe trarne vantaggio tutta l'Italia? Se no si dice, vabbè, tanto a Milano si sa che le cose vanno bene, ma Milano non è l'Italia. Ma innanzitutto perché è vero che Milano non è l'Italia, ma Milano può essere l'esempio d'Italia, e se le cose vanno bene a Milano, perché non devono andare bene in altre città, perché non devono andare bene a Roma, perché non devono andare bene a Firenze, perché non devono andare bene in tantissime altre realtà. Milano era una città industriale, una città che però ha vissuto nel corso degli anni una trasformazione, cioè le fabbriche hanno chiuso, moltissime, però Milano è riuscita a riciclarsi, dice, ma si è riciclata come centro della finanza. Sì, ma anche la finanza poi è andata in crisi dal 2008, cioè le banche hanno fatto delle straordinarie ristrutturazioni. Se voi andate a vedere quanti erano gli sportelli bancari a Milano e quanti sono oggi, soprattutto quanta gente era impiegata nel settore bancario e quanti ne sono Ne parleremo più avanti, però citando anche questa novità secondo cui l'acquisto da parte di Amundi del Pioneer Investments di Unicredit potrebbe portare proprio a Milano 300 nuovi posti di lavoro. Quindi è quella flessibilità di cui parlava lei, no? Si chiudono, esatto, magari delle agenzie, delle filiali, ma si portano delle professionalità diverse proprio nel settore degli investimenti bancari. C'è anche un'altra cosa, è vero questo, e qui fra l'altro con la Brexit vedremo che cosa cambia, se davvero qualcuno, qualche grande banca o società d'affari si sposterà fuori dalla Gran Bretagna, e che cosa sceglierà, se sceglierà di andare a Francoforte oppure se sceglierà una città appunto più interessante, appetibile e gradevole forse come Milano. Però mi colpisce un'altra cosa, il numero di locali aperti a Milano sono diventati molto trendy. Milano sembrava una città un po' chiusa, una città che non aveva tanto tempo per distrarsi. Oggi il numero di locali per mangiare, per un aperitivo, anche questo è cambiato, vuol dire che sta diventando anche più social. Sì. È un bel segno, perché vuol dire che la città, che era considerata chiusa, grigia, cioè la rappresentazione che noi avevamo era di una città solo dedita al lavoro con la nebbia, e finiva lì, insomma, una città triste. Oggi Milano non è una città triste, è una città vivace, è una città interessante, culturalmente interessante. Per esempio, mi stupisce anche il numero di giovani che frequentano i teatri, vuol dire che c'è una passione anche da quel punto di vista, cioè la cultura esiste, cioè non è rimasta solo chiusa nelle aule delle università, ma si è resa disponibile, è diventata interessante, intrigante. Bel Pietro, in chiusura, visto che il ruolo è quello dell'agente provocatore, però in questo caso provoco io, a Milano serve anche un bel arrivo di immigrazione, perché servono gli immigrati intanto per aumentare il numero dei residenti e poi per portare nuove energie. La verità fa spesso invece delle prime pagine molto puntute sulla situazione immigrazione. Qual è il tuo punto di vista su Milano e l'immigrazione? Allora, innanzitutto una precisazione, Milano ha bisogno di crescere anche dal punto di vista degli abitanti, ma c'è una tendenza che non bisogna dimenticare. Rispetto al passato, quando i milanesi tendevano a lasciare Milano, ad andarsene da Milano, ad andare in periferia, ad andare in provincia, a cercare le casette fuori, adesso invece c'è un ritorno a Milano, quindi da questo punto di vista significa che Milano è diventata di nuovo attrattiva. Quanto alla questione dell'immigrazione, facendo l'agente provocatore, allora provocherò ancora di più, ma io non sono contro l'immigrazione, anzi, il mio giornale non è contro l'immigrazione, ma è a favore di un'immigrazione che abbia un senso, che sia ordinata. Siamo contro il disordine dell'immigrazione, siamo contro il fatto che arrivino delle persone e vengano abbandonate nei viali lungo davanti alla stazione centrale o davanti alla stazione centrale, che dormano, veda. Io sto nella via che dalla stazione centrale porta verso il centro, ed è una via con dei grandi porticati. Benissimo, è diventato un dormitorio pubblico. La sera, quando io esco dalla redazione, vedo il numero di persone senza tetto, abbandonate, quasi tutti sono stranieri, sono che non sanno dove andare a dormire, a rifugiarsi, non hanno alcuna opportunità. Allora, è vero che in tutte le grandi città, da San Francisco a New York, ci sono o a Parigi ci sono o a Londra ci sono i cosiddetti homeless, ma è altrettanto vero che qui abbiamo importato gli homeless, cioè abbiamo fatto in modo che diventassero. Ci sono lungo i bastioni sono nella circonvallazione, sì. E beh, lì c'è gente che vive, che ha messo quindi radici, tu dici bisognerebbe dare per esempio fare una formazione, è una selezione. Penso che su questo punto sia d'accordo anche il ministro degli interni Minniti, ma prenderemmo un'altra strada e qui invece ci dobbiamo fermare, perché parliamo appunto di Brexit ed effetti su Milano. Io ringrazio il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, buona domenica, torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Sapete che stiamo parlando di come un'eventuale competizione di Milano con Londra dopo la Brexit possa portare dei vantaggi al mondo del lavoro e segnatamente, perché no, anche alle donne. Perché Milano, che ha già quasi la metà del monte di lavoratori donna ed ha un 48% di donne che esercitano professioni altamente qualificate. Allora, perché non trarre vantaggio da quel che si dice che potrebbe arrivare magari da aziende che potrebbero nei prossimi anni, sempre tutto il condizionale, lasciare Londra e scegliere un'altra capitale europea? Ma come fare di questa ipotesi una realtà? Forse servirebbe anche comunicarla, ed è di questo che parleremo con la nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Anna Maria Testa, creativa, si occupa da tantissimi anni di comunicazione e alla professione di consulente per le imprese affianca un'intensa attività di scrittura come blogger e saggista, oltre che 20 anni di docenza universitaria. Anna Maria Testa, più milanese e più comunicativa di lei non se ne possono trovare. Come si potrebbe, secondo lei, aiutare Milano per trarre vantaggi da un'eventuale, diciamo, diaspora di aziende da Londra? Intanto buona domenica a tutti. E poi sarebbe un'ottima idea aiutare Milano a conquistarsi un ruolo di rilievo ancora maggiore a livello europeo, importando un po' di attività londinesi. Come fare però? Una delle pessime abitudini italiane è partire lancia in resta, inventando soluzioni che poi magari si rivelano non così inedite o non così efficaci, senza analizzare approfonditamente il problema. Mi spiego, la prima cosa da fare in questo caso secondo me sarebbe capire esattamente attraverso una serie di ricerche quali sono per i diversi pubblici potenzialmente interessati a un trasferimento milanese i punti di forza della città, i punti di debolezza della città, i punti di forza e di debolezza a livello sistemico. Mi spiego, se uno dei motivi per non venire in Italia o a Milano è la tassazione o la burocrazia, è difficile risolvere questo problema a livello di comunicazione, dovremmo dire una bugia. No, certo. Non credibile, dicendo ragazzi. Però si può dire che, per esempio, la burocrazia a Milano ha tempi più brevi che in altre realtà italiane. O forse si può inventare uno sportello unico che semplifichi le pratiche burocratiche per aprire un'attività e poi comunicare questa novità. Cioè, la comunicazione funziona se mette nella forma più attraente e convincente e persuasiva possibile contenuti che ci sono. Quindi il primo passo consiste nell'individuare i contenuti più interessanti, nel crearli se ancora non ci sono, e poi nel comunicarli in maniera adeguata con il linguaggio giusto alle persone a cui questi contenuti possono interessare. In questi ultimi anni è andato tantissimo di moda il city branding, il marchiare le città con sistemi di grafica, di slogan. Io per esempio però sono rimasta, come dire, non proprio favorevolmente impressionata dalla comunicazione recente in cui si faceva vedere un frammento di video su Milano e poi si diceva Londra, no Milano, ma Milano deve avere una sua identità, non scopiazzare Londra o Parigi o Barcellona. No? È ovvio, da una parte deve promuoversi in positivo, dall'altra deve promuoversi attraverso contenuti positivi. Ricordo soltanto la imbarazzante operazione di aggiunta di un marchio alla città che è stata fatta da Roma non più di un paio d'anni fa, con lo slogan Rome and you, Rome and you, in inglese, con uno strano scudo con 7-5 palle sopra, una cosa inguardabile. Ecco, è tutto quello che non bisogna fare, bisogna procedere con un programma, in modo progettuale, capendo prima quali sono le cose specifiche da comunicare a specifiche persone, costruendo vantaggi concreti per le persone e le imprese che volessero trasferirsi a Milano e poi raccontandoli nella maniera più ampia, convincente e dettagliata possibile. Non significa fare dei lunghi discorsi, significa essere precisi, le parole possono anche essere precise, raccontandole a quelle persone. Qual è, secondo lei, la percezione che di Milano si ha all'estero, non in Italia? In Italia si ha una percezione di una città molto vibrante, molto più di prima e molto più di altre città, ma fuori? Ma da milanese che viaggia molto, la mia sensazione è che all'estero Milano sia molto molto conosciuta, appaia molto desiderabile e contemporanea, non dimentichiamoci, ma non solo per via di Expo, non dimentichiamoci che è stata citata fra le città da vedere assolutamente lo scorso anno, se non ricordo male. Sì. E ero a Chioppo, mi sono comprata una sciarpa e la commessa del negozio, senza sapere che fosse italiana perché parlava in inglese, me l'hanno data in uno strano modo dicendo "This is Milano style". Certo. Cioè, diamo perfino il nome al modo giapponese di annodare una sciarpetta. No, ma è un punto di forza lo stile, e questo, siccome sono 30 anni, no, che Milano per esempio ospita tutte le manifestazioni legate alla moda, e questo si è sicuramente affermato nella memoria collettiva, ed è un punto di forza insieme al food, design, insieme al design e insieme alla splendida opportunità geografica, perché Milano è al centro e al crocevia di tutto, sì, a 40 minuti di aereo da Parigi, ma a meno di 2 ore dalle montagne svizzere e a meno di un'ora e mezza dal mare. Una situazione favorevolissima. E con un buon sistema di servizi. Ecco, ha anche una grande offerta di musei, cinema, teatri, ma per esempio chi non sia italiofono, poco approfitta dell'offerta cinematografica o teatrale. Bisogna anche distinguere fra motivi per visitare la città e motivi per vivere nella città. Mi spiego: se chi dovesse decidere di venire a vivere a Milano è comunque interessato alla disponibilità di buoni appartamenti centrali a prezzi non enormi, alla presenza di piste ciclabili, per esempio, in vento, o di buone scuole per i figli, o di altri tipi di servizio che possono essere irrilevanti per un turista. Per questo dico che vale la pena davvero di capire più da vicino quali sono le diverse gerarchie per scegliere una città. Certo. Certo, una città creativa, certo, una città tollerante, questo è un altro punto di forza. E a proposito della creatività, Milano è sempre stata la capitale della pubblicità. Negli anni 90, quando ne scrivevo per il Corriere della Sera, era insieme al claim Milano da bere uno dei, diciamo, dei tormentoni di quel periodo lì. Oggi però le grandi multinazionali riducono la presenza, per esempio, del numero di pubblicitari italiani a Milano, o spesso questi stessi sono costretti, diciamo, a tradurre, siamo un po' brutali, no? Brutali, quello che si pensa e si decide a Londra o a Parigi. Perché? Il mondo della pubblicità ha risentito della grandissima, pesantissima crisi che ha colpito tutti i mass media classici, a cominciare dalla stampa periodica e quotidiana, e quindi da anno su anno, da tanti anni, sta guadagnando sempre meno. La crisi è condivisa peraltro con appunto tutto il mondo dell'editoria, per esempio. Ha saputo poco reinventarsi, sviluppando una consapevolezza e una ricerca del nuovo. Questa è una mia vecchissima posizione nei confronti della mia famiglia professionale. Mi sento un po' Cassandra, è un po' maestrina, devo dire, anche per, o vecchia zia, per anche per motivi anagrafici, però credo che un po' di consapevolezza in più e un po' di ricerca e di teoria in più potrebbe aiutare questo mondo, che è sempre stato protagonista o vittima, non pienamente consapevole di quanto capitava in un universo più grande. Vediamo se questa, diciamo, fase che per la quale qui a Nessuno è Perfetta, diciamo, facciamo il tifo, può dare nuova linfa a un settore che è sempre stato molto importante per Milano. Io ringrazio Anna Maria Testa per essere stata la nostra Sunday Girl di questa domenica, e le do appuntamento a una prossima, prestissimo, a una prossima puntata di Nessuno è Perfetta. Grazie, buona grazie domenica. Grazie. Buona domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci tornati a Nessuna è Perfetta. Continuiamo a parlare di come Milano potrebbe trarre vantaggio dalla Brexit, e lo facciamo subito con il professor Fabrizio Pagani, che è capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buona domenica Fabrizio Pagani. Vorrei intanto chiederle, so che la legge di bilancio per il 2017 contiene un pacchetto di norme che punta ad attirare il capitale umano in Italia. In che termini è stato pensato questo pacchetto e come potrebbe avere un effetto anche su Milano, visto che è di questa città, della capitale morale, che stiamo parlando questa domenica? Grazie, buongiorno, buona domenica a lei e ai radioascoltatori. La legge di bilancio effettivamente contiene un pacchetto articolato di misure per attrarre capitale umano. Se mi permette, darei un po' di background. Sì. No, il governo precedente, questo governo nella stessa linea politica, ha speso molto, molto della propria attenzione alla attrazione di capitali da parte di fondi e di multinazionali, di investimenti, di investitori in Italia. Questo l'abbiamo fatto con una serie di provvedimenti nel corso degli ultimi 24 mesi, e credo che molti risultati ed effetti si sono visti, perché le attività di investitori stranieri in Italia sono decisamente aumentate. Adesso, con questo ulteriore pacchetto di misure, ci si concentra, oltre che sui capitali finanziari, proprio sul capitale umano, e vi sono effettivamente un certo numero di facilitazioni e semplificazioni, perché alcune sono facilitazioni fiscali, altre sono semplificazioni, cioè si cerca di rendere la vita più facile a chi si trasferisce in Italia. Questo vale sia per i managers stranieri, sia per gli italiani che si sono trasferiti per un certo periodo all'estero, che hanno voglia, intenzione di le faccio un esempio, no? Abbiamo ne ho citato prima la novità. Abbiamo visto che dopo l'acquisizione di Pioneer Investment, ceduta da Unicredit ad Amundi, il presidente di Amundi, che è anche vicepresidente di Crédit Agricole, Xavier Musk, ha detto che il nostro paese è destinato a diventare il secondo mercato dopo la Francia, e che a quanto è stato detto, poi vedremo se sarà così, saranno 300 i nuovi posti di lavoro che si avranno, con un raddoppio dei dipendenti impiegati presso la sede di Milano. Se tra questi, diciamo, 300 in più ci saranno dei manager che arrivano dall'estero, voi che cosa farete come governo per attrarli? Allora, questa effettivamente è una notizia importante, ed è un impegno che Amundi ha preso, e della quale non possiamo che essere felice, che rafforza, diciamo così, l'attrattività e la centralità di Milano nel sistema finanziario italiano, ma direi più in generale europeo. Queste persone dipende dal loro status, ma le do un esempio più semplice: per un manager, diciamo così, un quadro intermedio, anche un quadro elevato della società, ma questo vale anche per qualsiasi altra società, non è un provvedimento ad hoc per questo specifico caso. La tassazione sulla remunerazione sarà applicata soltanto sul 50% del salario. Quindi sostanzialmente il manager avrà un 50% della remunerazione tax free. Beh, questo è parecchio, diciamo, affascinante, immagino, per chi può pensare di venire a Milano. Mi piacerebbe capire se, introduco il nostro ospite Claudia Parzani, che è Managing Partner per l'Europa dello studio Linklaters, se dal punto di vista, appunto, di un avvocato d'affari con responsabilità europea, le cose che ci ha appena detto il professor Fabrizio Pagani, che sono state decise dal governo italiano, secondo lei, Parzani, possono essere significative per far spostare un manager di livello da Londra a Milano? Buona domenica intanto. Buona domenica, grazie per la domanda. Sì, sicuramente credo che quello che diceva bene il professor Pagani diciamo, abbiamo bisogno come paese di essere capaci di attrarre, e attrarre vuol dire sì passare, come si diceva appunto, per sgravi fiscali, vantaggi, sia per semplificazione. Io posso porre diciamo così, in una modalità più provocatoria, più di spunto, quelli che restano secondo me dei temi importanti e temi aperti di paese, che valgono sia per attrarre i manager ma per attrarre anche capitali, perché sicuramente abbiamo bisogno di capitale umano, ma abbiamo bisogno anche di capitale che venga investito nel nostro paese. E quindi quello che gli investitori cercano, e cercano sempre più in un paese come l'Italia, è la chiarezza, è la semplicità, è la trasparenza. Quindi sicuramente stiamo facendo passi nella direzione giusta, e resta in dubbio, a mio giudizio, per quello che vedo, per quello che sento, possiamo fare, secondo me possiamo fare meglio, perché ne abbiamo sicuramente le capacità, ma ne abbiamo anche la voglia e il desiderio. In che cosa, avvocato Parzani, Madrid per esempio ci sta rosicchiando già un po' di vantaggio? Perché so che per esempio molti studi legali stanno pensando di trasferirsi, sempre che la Brexit vada in una certa direzione, stanno pensando di trasferirsi a Madrid, è così? Allora diciamo che per ora mi verrebbe da dire che relativamente alla Brexit c'è stata tanta analisi di scenario e forse pochi fatti, nel senso che effettivamente c'è molta discussione sulle procedure, e l'incertezza porta a fare tanti piani che non hanno poi forse visto ancora un'implementazione. Ci sono sicuramente paesi che si stanno vendendo, si stanno offrendo in una modalità molto, molto attiva. Mi verrebbe da dire che sicuramente quelli che saranno più capaci di attrarre alla fine saranno probabilmente i paesi che hanno una vicinanza di carattere linguistico, secondo me, quindi ovviamente i paesi che sanno. Quindi l'Irlanda. Sì, l'Irlanda sicuramente, ma forse anche, voglio dire, i paesi, anche la Germania, no? Che ha comunque una popolazione che è sicuramente più preparata nell'accogliere degli stranieri, e paesi che hanno le infrastrutture per accogliere numeri di manager ampi, no? Il caso che ben veniva citato di Pioneer Mundi, effettivamente non è ovvio per le città accogliere manager in ampia misura, perché obiettivamente questi manager arrivano con famiglie, servono le infrastrutture, servono le case, quindi voglio dire, la Germania è attraente, Francoforte forse non è pronta per ricevere tutte le banche, quindi diciamo che la Spagna comunque è sicuramente molto proattiva, abbiamo un vantaggio importante secondo me, che è distante, è più scomoda dell'Italia. Professor Pagani, voi siete consapevoli del fatto che si stanno muovendo anche altri paesi, che cosa si sa di tutte queste trattative che per ora mi sembrano ancora allo stato embrionale? Noi sappiamo molto, seguiamo e tracciamo quello che stanno facendo gli altri paesi, vediamo un grande movimento, posso dire anche i nomi, Parigi sicuramente è una città che a livello di amministrazione locale, a livello di regione dell'Île-de-France si è molto mossa, ha organizzato anche degli eventi pubblici, lo stesso Francoforte con il Land dell'Assia e così via. Devo dire che alcuni di queste proposte non mi sembrano del tutto centrate, anche perché presentare dei dossier nelle lingue nazionali anziché in inglese non ci sembra particolarmente convincente. Noi l'abbiamo fatto in inglese invece. Noi l'abbiamo fatto in inglese e noi tiriamo avanti per la nostra strada, guardando non solo alla comunicazione ma guardando anche alle misure che abbiamo preso, che sono decisamente attraenti, che non credo altri paesi abbiano fatto, almeno non con la stessa profondità ed ampiezza. Ecco, prego Parzani. No, non ero io. Io ho una domanda per Claudia Parzani, perché partendo dal dato che mi sembra molto significativo, secondo cui, dati forniti dal Ministero del Lavoro, metà dei lavoratori di Milano sono donne e quasi la metà delle lavoratrici esercita professioni altamente qualificate, chiedo all'avvocato Parzani: sarebbe complicato convincere manager donne a trasferirsi a Milano, o per quello che risulta a lei, che lavora appunto tra Parigi, Londra e ha uno studio legale che è internazionale, o invece l'idea di lavorare in una città che è affascinante, piena di storia, di moda, può essere un vantaggio? Sicuramente l'angolo di attrarre occupazione femminile potrebbe essere un angolo su cui Milano potrebbe pensare di posizionarsi, no? Subito dopo il voto di Brexit, le considerazioni che sono state fatte ovviamente per l'Italia, in particolare per Milano, erano, e sicuramente il professor Pagani meglio lo sa di me, però erano relative a chi vogliamo attrarre, perché obiettivamente l'audience è molto ampia, no? Quello che l'Inghilterra ci lascia è potenzialmente più o meno interessante per noi a seconda dei vari angoli, quindi vogliamo essere un polo dell'innovazione, vogliamo essere un polo per le banche d'affari, vogliamo essere un polo per gli studenti, per esempio. Sicuramente lavorare sul tema del genere, dell'occupazione femminile, potrebbe essere molto interessante per Milano, che ha un'occupazione femminile molto alta. Se posso, il dato credo più interessante è abbastanza recente, ed è un dato che dice che Milano ha un'occupazione femminile del 65% delle donne che risiedono in città, quindi un dato che supera ovviamente amplissimamente l'occupazione femminile in Italia, che è ancora purtroppo sotto il 50%, ma supera anche la media europea e si posiziona sopra città come Lugano, città come Londra, quindi effettivamente Milano potrebbe essere il buon esempio, potrebbe essere quel faro che viene utilizzato per attrarre questa tipologia di donne che cercano effettivamente forse qualcosa di un pochino di diverso rispetto ai colleghi uomini, perché cercano città che siano comode, facili, questo è l'aggettivo giusto, comode, facili, città che permettano obiettivamente di poter combinare in una modalità facile le diverse parti della vita di una donna che lavora, e quindi sono città che devono probabilmente sapersi porre come città di apertura, città di servizi, città che sono in grado di supportare una donna nella, diciamo così, a 360 gradi nella propria vita, nella propria attività. Professor Pagani, al Ministero dell'Economia avete preso in considerazione l'idea di fare una comunicazione molto mirata sulle donne, perché poi sono le mogli che decidono spesso se un marito può o non può accettare un'offerta di lavoro all'estero, e poi ci sono appunto tante manager, tante assistenti, cioè tanti talenti che sarebbe bello importare in una città come Milano. Questa mi sembra un'ottima idea, la prendiamo subito, però vorrei dire ancora una volta più sulla sostanza che sulla comunicazione che l'Italia ha comunque la legge più avanzata in materia di rappresentazione di genere nei consigli di amministrazione, e credo che su questo molto è stato fatto negli ultimi anni. Infatti la presenza femminile, o comunque la diversità di genere, preferirei dire, perché mi sembra più moderno metterla in quei termini, la differenza di genere nei consigli di amministrazione in Italia è una delle più forti sicuramente in Europa e nell'Europa continentale. Per esempio nelle nostre società pubbliche abbiamo oltre il 40% di differenza di genere rappresentata nei CDA. Bene, questa nota positiva che fa bene il professor Pagani a ricordare, io ringrazio l'avvocato Claudia Parzani di Linklaters, ringrazio Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non pensiate che finisca qua, perché tra qualche mese intanto vorremmo vedere quanto tempo ci mettono ad arrivare questi nuovi, diciamo, manager di Amundi a Milano, e poi monitoriamo quello che Milano sta facendo per rosicchiare davvero un po' di spazio legata alla Brexit. Intanto vi ringrazio, grazie Fabrizio Pagani, grazie Claudia Parzani, buona domenica a entrambi. Nessuna è perfetta. Eccoci, l'ultima parte di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento dei consigli della nostra coach e della lettera della settimana. Vi ricordo che potete scriverci a Nessuna è perfetta @radio24.it e commentare con noi su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta, oppure su Facebook. Questo è quanto ci scrive Paola. Lavoro a Milano in una multinazionale italiana che ha diverse sedi all'estero. Dopo la Brexit, alcuni miei colleghi che lavorano nella sede londinese del gruppo stanno meditando di rientrare in Italia. Questo comporterà senza dubbio qualche modifica nell'organizzazione della nostra azienda e non nascondo di avere timore che a causa della loro esperienza all'estero sia io a farne le spese. Posso capire che l'esperienza fatta a Londra sia per questi colleghi una carta in più, ma anche io ho sempre lavorato duramente in questi anni. Che devo fare? Ecco, lo chiediamo alla nostra coach. Bentornata, buona domenica Carla Ciani. Buona domenica a tutti. Abbiamo le pillole di Carla Ciani, tutte per Paola. Prima pillola. Paola dovrebbe considerare questa come un'occasione per riflettere sulla sua attitudine al cambiamento. Cioè, se le motivazioni personali in base alle quali ha preferito restare in Italia sono valide tuttora e gratificanti per lei, deve conservare il valore di queste motivazioni. Se viceversa la scelta è stata generata da timori, deve cogliere questa occasione per allenarsi ed aprirsi a questo cambiamento, non subirlo come un fattore imposto dagli eventi, ma viverlo come un'opportunità, cioè approfittando del rientro dei colleghi per aprirsi a nuove relazioni, scambiarsi esperienze personali e professionali, attivare un confronto sui modelli di comportamento e sui metodi di lavoro e capire in questo senso quali potrebbero essere davvero i suoi punti di forza e punti di debolezza. Seconda pillola. Seconda pillola. In base al suo posizionamento, al suo ruolo in azienda, deve interpellare le funzioni aziendali che sono i suoi riferimenti diretti per capire come l'azienda vorrà integrare questi rientri. Questi colleghi che arrivano da Londra. Questi colleghi che arrivano da Londra e le modifiche organizzative sono state messe in atto o che verranno realizzate. E deve farlo con l'obiettivo di assicurare da una parte la sua collaborazione, ma anche avere chiarezza dell'impatto che tutto questo avrà nel suo ruolo o nella sua attività. Sarà anche molto utile che si informi su quanto l'azienda avrà eventualmente a disposizione per essere sostenuta nell'accogliere queste persone che rientrano e anche però su quanto l'azienda metterà in campo per valorizzare e trattenere il capitale umano esistente e quindi in questo capitale anche Paola con i suoi contenuti, con il suo valore. Sarà anche l'occasione per Paola per riflettere un po' su un aggiornamento delle sue competenze e sulla magari necessità attraverso gli strumenti aziendali di rafforzarle queste sue competenze. Terza e ultima pillola. Non temere di esprimere la sua italianità e milanesità, anzi fare leva proprio su queste, mettendo in luce attraverso i suoi comportamenti gli aspetti più positivi che contraddistinguono questa appartenenza, cioè l'efficienza ma anche la capacità relazionale, lo stile. Questo credo che sia certamente anche in linea e coerente con i valori che la sua azienda, essendo italiana, esprimerà attraverso il suo brand e che sono quelli che generano così tanto appeal nel mondo. Questo terzo punto era qualcosa che magari né Paola né tanti di noi avrebbe valutato come un punto di forza e grazie a Carla Ciani che invece ci fa riflettere sempre utilmente su cose su cui magari passiamo così superficialmente senza fermarci. Allora grazie alla nostra coach e alle sue tre pillole per Paola. Buona domenica a lei, buona domenica a voi che ci avete seguito. Noi ci ritroviamo come sempre domenica prossima.